Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Conoscete Domino's Pizza? Avrete visto il logo in qualche film, oppure in qualche serie TV, oppure l'insegna in giro per il mondo. È la seconda catena di pizzerie degli Stati Uniti dopo Pizza Hut. Conta, pensate, più di 12.000 pizzerie in 80 paesi del mondo. Il fatto che arrivi in Italia, patria della pizza, è di per sé una notizia. Il fatto che ci arrivi negli stessi giorni in cui sembra ormai certo che sia pronto allo sbarco sul mercato italiano anche Starbucks, il colosso che ha costruito la sua fortuna su un'altra eccellenza italiana, il caffè, ebbene tutto questo raddoppia l'attenzione e ci fornisce più di uno spunto su cui riflettere. A poco più di un mese da Natale, a due settimane da Black Friday e Cyber Monday, le giornate di super sconti dedicate ai maniaci dello shopping che da qualche anno hanno fatto la loro comparsa anche in Italia, vi raccontiamo il fenomeno tutto cinese del Singles Day, la giornata dei single, che quest'anno ha fatto registrare numeri da capogiro. Della serie Come inventarsi una ricorrenza e costruirci il più grande evento mondiale di shopping online. E poi spazio agli yaki, i nuovi trendsetter che hanno soppiantato gli hipster. Call now and we'll deliver a hot, delicious, custom-made pizza to you in less than 30 minutes. One call does it all. Lo spot vintage ne è la conferma, da sempre concentrata sulla consegna a domicilio. In tutto il mondo le vendite online e telefoniche rappresentano il 95% del fatturato totale. La catena di pizzerie Domino's Pizza è sbarcata in Italia. Un negozio a Milano in zona Bisceglie, quindi posizione periferica, la location tanto quando si punta per lo più a ordinazioni telefoniche e via web conta relativamente. L'insegna, lo dicevamo in apertura, 12.800 pizzerie in 80 paesi del mondo, negli Stati Uniti ha già sperimentato con successo ordinazioni via TV, via SMS con gli emoticon della pizza e via Twitter. Ecco perché i leader mondiali della pizza a domicilio non pensano affatto che aprire un punto vendita in Italia sia come vendere ghiaccio agli eschimesi, tutt'altro. L'Italia è pronta per noi, ci ha detto il numero uno di Domino's Pizza International, Richard Ellison. Sentiamolo al microfono di Lara Vecchio. It's kind of crazy, isn't it? Folle, vero? Ma noi pensiamo veramente che sia il momento giusto. Pensiamo che Domino's è pronto per l'Italia e che gli italiani sono pronti per Domino's Pizza. In realtà abbiamo fatto tanti compiti prima di aprire. Abbiamo fatto moltissima ricerca sui clienti, soprattutto per quanto riguarda la percezione del brand da parte del cliente, e questo ci ha permesso di sviluppare meglio i nostri menu e la scelta degli ingredienti per adattarli meglio al mercato italiano. La chiave del nostro successo negli 80 paesi in cui siamo presenti al di fuori degli Stati Uniti è quella di portare la nostra esperienza, il nostro know-how e abbinarli alla conoscenza del mercato dei nostri partner locali. Se poi diamo un esempio che gli altri possono seguire, per noi va bene. Arriva Domino Pizza, arriva Starbucks, col caffè ci volete colonizzare? No, noi non siamo degli invasori. Una delle cose meravigliose dell'Italia è che ci sono decine di migliaia di pizzerie locali e continueranno ad esserci. Ma credo che ci sia spazio nel mercato anche per qualche nostra pizzeria. Siamo eccitati all'idea di essere presenti nella patria della pizza. Io ne sono felicissimo. Ho seguito molte aperture in giro per il mondo, ma questa è davvero speciale. Sicuramente qualche spunto di riflessione per le pizzerie e le catene di ristorazione italiane c'è. Basti pensare che questa è solo la prima delle 10 aperture previste a Milano e Interland entro fine 2016, con un servizio di consegna attivo 7 giorni su 7, dalle 11.30 alle 23, dal lunedì al giovedì fino a mezzanotte, addirittura dal venerdì alla domenica. Alessandro Lazzaroni è l'amministratore delegato di Domino's Pizza Italia. Mi sembrava una bellissima idea il fatto di riuscire a mettere insieme un prodotto di alta qualità insieme ad un modello di servizio che sul mercato italiano non è presente, per cui prodotto italiano con ingredienti italiani e ingredienti molto importanti come gli ingredienti DOP che abbiamo nell'assortimento, mozzarella di bufala campana piuttosto che grana padana, il prosciutto di Parma o gorgonzola, assieme ad un modello di servizio che ci permette di arrivare dal cliente velocemente, di arrivare dal cliente con una pizza calda, di permettere al cliente di fare un ordine al telefono ma anche online, di pagare con carta di credito, bancomat in negozio ma anche a casa quando gli viene consegnata la pizza piuttosto che sul nostro sito. Il nostro obiettivo è quello di aprire numerosi punti vendita, ne apriremo uno fra circa 2 mesi nella zona Navigli qui a Milano, poi continueremo con altri punti vendita nel 2016, partiamo da Milano ma usciremo da Milano e poi dopo presumibilmente fra circa un anno e mezzo inizieremo anche a coinvolgere degli imprenditori attraverso il sistema di franchising e quindi apriremo ancora fuori da Milano e in tutte le città. Good evening to the great people of China. I am the 45th President of the United States, Frank J. Underwood. And tonight, I wanted to take a moment to say hello to all of you out there to wish you a happy Singles Day. If this Singles Day is the excuse... Cambiamo argomento, quello che abbiamo appena ascoltato era Kevin Spacey, ingaggiato come testimonial nei panni di Frank Underwood, il protagonista di House of Cards, per la campagna di Alibaba, il colosso cinese dell'e-commerce, in occasione del Singles Day, la giornata dei single, considerata uno dei principali eventi mondiali per lo shopping. Ideato nel 2009, il doppio 11, l'11 novembre appunto, quest'anno ha polverizzato ogni record con oltre 14 miliardi di dollari incassati in 24 ore. Un miliardo di dollari, pensate, è stato speso solo nei primi 8 minuti dopo la mezzanotte. Ne abbiamo parlato con Marco Gervasi, che è tra i massimi esperti internazionali di e-commerce asiatici, autore di East Commerce, un libro che racconta molto bene l'e-commerce cinese. I numeri sono abbastanza incredibili, la crescita in 12 mesi è incredibile, basta solo pensare che paragonato ad alcune società come ad esempio Viacom oppure Facebook oppure l'IPO di Ferrari, il numero eccede molto ma molto di più questi dati, quindi è semplicemente un fenomeno incredibile da poter concepire. Black Friday e Cyber Monday da qualche anno sono arrivati anche da noi, arriverà anche il Singles Day? Non lo so, il Singles Day in Cina è stato inventato perché era un periodo dell'anno in cui c'erano poche vendite ed era un periodo molto tranquillo, di solito le vendite principali sono durante il Capodanno cinese tra gennaio e febbraio. Loro sono riusciti con un sistema molto intelligente, che è quello di convincere i brand che vendono sulla piattaforma a ridurre i prezzi almeno del 30% rispetto al prezzo normale della merce venduta online, e questo ovviamente ha iniziato ad attirare moltissimi consumatori, i quali addirittura aspettano quasi un anno per poter acquistare la merce in blocco l'11 di novembre. Penso che potrà arrivare in Italia nel momento in cui internet e l'e-commerce avrà un utilizzo così diffuso come in Cina. E per la prima volta quest'anno anche importanti department store americani come Saks Fifth Avenue mercoledì hanno offerto i propri prodotti a prezzi speciali. A poco più di un mese da Natale, a 2 settimane da Black Friday e Cyber Monday, le giornate di super sconti che da qualche anno hanno fatto la loro comparsa anche in Italia, l'assalto al salvadanaio dei consumatori, insomma, è iniziato. Continuiamo a parlarne tra pochissimo, restate con noi perché poi scopriremo anche la nuova tribù giovanile che fa tendenza e che ha soppiantato gli hipster. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Essere e Avere. Noi studio con Essere Avere stiamo parlando di quello che è ormai diventato il più grande fenomeno globale di shopping, il Singles Day, la giornata dei singoli in Cina, in cui gli e-tailer, cioè i siti di e-commerce, lanciano per 24 ore una serie di sconti e promozioni imperdibili. Quest'anno, abbiamo detto, l'evento ha segnato un nuovo record, il gigante cinese Alibaba ha registrato oltre 14 miliardi di dollari di vendite online, un fenomeno impensabile utilizzabile altrove per i numeri delle persone connesse alla rete, ma anche per il modello di e-commerce cinese, molto più innovativo di quello occidentale. Ci spiega il perché ancora Marco Gervasi, autore di East Commerce. Allora, innanzitutto circa il 70% degli acquisti sono stati fatti su mobile, quando in Italia gli acquisti fatti da mobile sono intorno al 10%, quindi parliamo di una differenza del 60%, il che vuol dire che l'e-commerce cinese è già concepito per il mobile, mentre l'e-commerce del nostro paese è ancora concepito per PC. Questo vuol dire che la Cina è già in grado di sviluppare modelli per mobile che, nel momento in cui il mobile inizierà nel nostro paese a crescere, potranno essere tranquillamente copiati perché sono già stati testati su centinaia di milioni di persone. Lei racconta anche come questi modelli, che sono perfettamente integrati nella società cinese, fatta anche molto e soprattutto, chi è stato in Cina lo sa, di relazioni umane, relazioni personali, sono riusciti, lei scrive, ad integrare anche questo aspetto. Sì, i cinesi che cosa hanno fatto? Hanno trasportato virtualmente quello che succede nel loro mondo fisico, quindi hanno creato un social network che è una sorta di WhatsApp combinato a Facebook, che si chiama WeChat, che oramai è usato da più di 600 milioni di persone. Questo social network permette di dialogare dal punto di vista e-commerce a tu per tu con i marchi senza che gli altri possano vedere il dialogo, quindi crea una relazione diretta one to one, proprio come succede nella cultura cinese, in cui c'è un rapporto diretto, e questo ha fatto sì che il livello di fiducia nel rapporto tra brand e consumatore online è diventato molto più forte che offline. Focus sui trend. Barba e camicia a quadri, addio, è finita l'era degli hipster, è iniziata quella degli yaki, scritto YUCCI ed è finale la nuova tribù che fa tendenza. E allora ci aiuta a scoprire tutto di loro Valentina Ventrelli di Future Concept Lab. Ciao Valentina. Buonasera a tutti. Allora, chi sono questi yaki? Yakis è un acronimo che sta per Young Urban Creatives, e sono giovani creativi urbani e stanno sostituendo, come giustamente dici tu, dal punto di vista dell'immaginario, gli hipster. Allora, il termine è stato coniato da David Infante, un giovanissimo, tra l'altro 26enne giornalista americano, che ha pubblicato qualche mese fa un articolo su Mashable e su Huffington che ha scatenato una vera e propria caccia mediatica che in un paio di mesi ha messo in luce, ha passato al microscopio questa generazione di creativi, non solo negli Stati Uniti. In effetti è una generazione che noi in istituto seguiamo da molti anni, di fatto non va a sostituire i millennials, è esattamente l'evoluzione valoriale e stilistica di quelli che noi chiamiamo gli Unique Sons, che sono comunque giovani interessati anche al successo economico, cioè molto poco naif. Infatti, quando si parla di creatività ci dobbiamo un po' dimenticare l'idea bohemienne dell'artista. Sono giovani molto determinati che seguono molto il tema dell'appagamento, anche del successo economico, e che semplicemente stanno maturando nuovi valori, nuove professioni. Sono assolutamente interessati a sviluppare le proprie passioni, poco interessati al posto fisso, ovvero le aziende per loro sono un passaggio, cioè possono essere come un completamento della formazione, però poi tendenzialmente cercano di sviluppare anche attraverso l'imprenditoria le proprie passioni. In pratica sono gli yuppie o gli api, come vogliamo, esatto, dire, con la creatività al posto della professionalità intesa anni 90, no? Ma il broker. Perché il mondo è cambiato, cioè, esatto, se noi pensiamo agli anni 80 e agli anni 90, la finanza era, come dire, il faro di un determinato tipo di successo. Oggi, con l'era digitale, anche con tutto quello che ha portato in termini di nuove professionalità e anche di nuova opportunità, mi viene da dire, espressiva, personale, questo ha semplicemente spostato, come dire, le ambizioni verso nuove professioni, e la creatività diventa un modo per esprimere se stessi. questo si vede moltissimo nella formazione. Negli ultimi anni e soprattutto veramente gli ultimi 5 anni hanno visto un'esplosione di università in Italia e all'estero legate al mondo delle creatività, che come sappiamo non è semplicemente la pittura, ma è proprio il multimediale, la grafica di un certo tipo, l'illustrazione, cioè tutti i mondi che nel web trovano grandissima espressione. Beh, e questo rispecchia anche il protagonismo dei contenuti in rete, no? Sotto varie forme. Niente barba, abbiamo detto, Valentina, sì, invece ai baffi. Ecco, vediamo certo, un po' di definire il loro stile. Certamente, anche perché con tutta l'esplosione dei barbershop bisogna comunque mantenere esatto, almeno i baffi, curiamoli. No, senz'altro sono molto interessati allo stile, alla cura di sé, per cui sì, si accorciano le barbe, c'è molta più cura nei capelli, nei baffi, anche molto disegnati. In generale sono interessati allo stile e alla qualità, mi viene da dire, anche alla qualità dell'esperienza. Sono molto meno interessati a tatuaggi particolarmente vistosi, sono in generale assolutamente legati all'esperienza estetica anche nel cibo. Da una ricerca è emerso che è una generazione che spende più del 43% dei loro guadagni in cibo e tecnologia. La tecnologia ce la potevamo immaginare, ma se pensiamo anche alla ristorazione di un certo tipo, di una certa qualità, ripeto, non solo gustativa ma anche estetica, spiega il successo e la predilezione di questa generazione per Instagram, dove vengono spesso fotografati i piatti prima di essere consumati. Quindi Instagram al posto di Twitter in questo caso. Sono molto visuali, sono, ripeto, molto molto legati anche a un'esperienza estetica complessiva. Hanno uno stile molto casual, però parliamo di prodotti di sportswear, di marche molto costose. Ne cito una, Lululemon, nasce come specializzata in yoga, che è un'attività soprattutto per le signorine di questa generazione molto praticata e che ha dei prodotti di altissima gamma. Parliamo delle signorine, nel senso che questa non è, parliamo di barba, ma non è una generazione o uno stile solo maschile, è appunto assolutamente anche molto femminile, e dal punto di vista dello stile le griff e le marche lasciano il posto a nuovi marchi di tendenza, nuovi marchi di ricerca, mi viene da dire. Pensiamo a un marchio americano con sede a New York, Mansour Gabriel, che appunto sono i due cognomi delle due fondatrici, che pur avendo sede a New York propone un mondo di accessori di grandissimo pregio, con pelle italiana, con grandi rifiniture, con grandi dettagli, per cui uno stile abbastanza essenziale nelle forme, ma con una grande sofisticazione in termini di qualità e di dettagli. Le Yaki, ho letto, comprano su Etsy anche, il sito che propone appunto prodotti artigianali, prodotti particolari e prodotti poi unici. Esatto. Cioè, il tema è l'unicità, che è una nuova forma di esclusività, è una nuova forma di lusso. Se pensiamo all'esplosione delle birre artigianali, che sono un'altra moda, se vogliamo, degli ultimi anni, ed è la ricerca della birra unica di piccolissima produzione molto legata ad un territorio. Rimandiamo poi alla lista divertentissima che BuzzFeed, che è uno dei certo. più seguiti media americani, ha pubblicato proprio sulle 99 cose che gli Yaki amano di più. È molto divertente. Sì, è molto divertente. Perché appunto racconta con un taglio americano, ma ripeto, è una generazione che non è semplicemente è esplosa mediaticamente dopo l'articolo di David Infante, ma sicuramente ha un percorso, come spesso accade, più lungo di maturazione, che appunto ha portato, anche dopo la crisi economica, anche dopo un ripensamento in generale dei valori, a cercare nuove forme di appagamento. Grazie a Valentina Ventrelli, alla prossima. Arrivederci, grazie. Il consumautore. Siamo alla riflessione finale dedicata alle parole chiave del marketing e della comunicazione, la nostra bussola nei consumi. Diamo il benvenuto come sempre a Francesco Morace. Ben trovato Francesco. Ben trovata Maria Luisa e buonasera a tutti i radioascoltatori. La parola di oggi è reputazione e, come spesso facciamo, in questo caso lo spunto è un libro importante, Reputation Economy, di Michael Fertig e David Thompson, che propone questa idea l'idea di reputazione come una delle chiavi anche della web economy, perché alla fine noi siamo ormai archiviati completamente nella rete. Tutto quello che raccontiamo sui nostri social viene non solo ricordato, ma tutti i dati vengono poi elaborati, e quindi ciascuno di noi ha un profilo. Se noi nelle cose che diciamo o facciamo non siamo sufficientemente credibili, quindi non lavoriamo sulla reputazione nel tempo, rischiamo davvero molte cose. E mai come oggi anche le aziende e i brand devono stare attenti alla reputazione digitale e alla loro immagine sul mercato. Sì, in questo senso il libro propone due parti. Una che è legata alle strategie difensive, cioè dobbiamo essere molto più attenti a quanto, ma anche individualmente, ciascuno di noi racconta, perché ad esempio le forme di recruiting, di ricerca di professionisti o di forza lavoro da parte delle aziende sempre più utilizza questi dati, e quindi se tu hai un profilo credibile hai sicuramente più numeri per poter essere ad esempio assunto. Ma esiste anche il contrario, cioè le aziende che devono stare molto più attente in tutto quello che fanno e comunicano, perché anche i consumatori con le loro associazioni analizzano e controllano quanto avviene nel mondo un po' misterioso delle multinazionali. Parola chiave è fiducia, quindi, Francesco. Molti dei nuovi modelli di business si basano proprio su questo, però possiamo dire una fiducia strutturata, comunque agevolata, guidata dalle tecnologie digitali. Assolutamente, e qui abbiamo la seconda parte del libro che ragiona più sulle strategie d'attacco, cioè cosa bisogna fare sia come singoli che come aziende per poter entrare nella reputation economy. Bisogna essere innovativi, bisogna essere unici, quindi memorabili, ma bisogna sempre rispettare quelle che oggi vengono considerate le nuove norme del vivere sociale, quindi da un lato la sostenibilità, dall'altro il rispetto dell'altro, del lavoro, dell'ambiente. Però questo non basta, bisogna anche essere originali, innovativi, e quindi dare alla propria reputazione un tocco, diciamo anche di estrosità. Grazie a Francesco Morace, grazie anche in regia a Gianmarco Ferronato. Essere Avere finisce qui, a domenica prossima. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.